Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio e buon compleanno a Radio 24. 4 ottobre 1999, giorno di San Francesco, io c'ero, e lo dico con piacere, un pizzico d'orgoglio, così come c'era al tempo l'attuale ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Grazie Gigi, tanti auguri a tutti voi. Ma che perché... bello, è vero. È vero. E c'era Elia Zamboni, allora sì. Primo direttore di Radio 24, c'era un fuoriclasse come Santalmassi. Sì. Insomma, c'era tanta gente, molta è rimasta per fortuna, qualcuno invece ha tentato, e riuscendoci, nuove avventure come la tua. Guarda, un saluto da Vincenzo che ti domanda: ma perché il ministro Fabio Tavelli un giornalato non si porta anche il ministro Lia Capizzi? No? Beh, sarebbe straordinario, anche perché ai tempi Lia conduceva Zona Cesarini su Rai Sport, quindi lei è fuori classe della radio, per cui con molto piacere glielo chiederò. Quindi vedi che ci starebbe come. Evidentemente Vincenzo ti ha seguito fino a un istante fa su Sky Sport 24, ha visto che adesso hai mollato da sola la povera Lia per staccarti, marcatura uomo, esatto, e per collegarti come sempre di martedì con noi. Dunque, allora, proprio diciamo che oggi la conversazione, il punto europeo sarà un tantino più sintetico, proprio per permetterti di tornare al più presto al ponte di comando. Agli ascoltatori dico però che oggi potrebbe essere una giornata storica, e non soltanto per via del nostro compleanno. Perché? Perché c'è una notizia che commenteremo poi nella seconda parte della trasmissione con il nostro esperto del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo. Marco sta in questo momento moderando a Bari un convegno sull'evasione fiscale. A sua volta si staccherà, un po' come Fabio Tavelli, intorno alle 2:30 per commentarci e per proiettare soprattutto questa notizia che dice: le leghe calcio europee non possono più vendere i diritti televisivi su base territoriale. La Corte di Giustizia della UE ha pubblicato una sentenza che stabilisce come il principio su cui si è fondato sinora il sistema di vendita dei diritti sportivi è contrario al diritto della concorrenza dell'Unione Europea. Di fatto è l'avvio, scrive l'ANSA, io dico potrebbe essere l'avvio, ma forse lo è davvero, di una rivoluzione del mercato televisivo simile a quella innescata a suo tempo dalla sentenza Bosman sul trasferimento dei calciatori. È anche la fine del contrabbando delle schede tra appassionati, perché i privati infatti hanno diritto a comprare l'abbonamento in una qualunque emittente satellitare, indipendentemente dal loro luogo di residenza in Europa. Qualche limite invece è stato ancora riconosciuto per lo sfruttamento commerciale delle schede nei locali pubblici. Beh, insomma, da qualche parte diversa da quella attuale ci porterà questa sentenza, e probabilmente disegnerà scenari diversi. Fabio, io sono... Sì, ti posso dire una cosa? La dici? Vorrei vedere. Tra l'altro, ovviamente io non dirò una parola, perché poi comunque le sentenze si fanno rispettare, si rispettano e non si commentano, ma è curioso come abbia fatto benissimo l'ANSA a citare il precedente di Bosman, perché anche questa volta è una piccola storia a fare una grande storia, cioè un piccolo pub di Portsmouth che ha fatto causa, che è stato denunciato e poi è andato in causa con la Premier League, in quanto questo pub trasmetteva le partite della Premier League con delle schede greche. Sì. A volte capita, per chi va in vacanza in posti abbastanza, insomma, a me è capitato in Messico, ma poi anche in Grecia, di trovare dei pub inglesi che trasmettevano partite del campionato della Premier League con dei commenti in lingue diverse, e devo anche dire che chi va in vacanza a Sharm el Sheikh piuttosto che in altri posti sostiene di vedere il nostro telegiornale praticamente tutti i giorni. Sì. È evidente che qualcosa è mancato anche dal punto di vista tecnologico, e credo che sia praticamente impossibile riuscire a schermare all'interno di un confine di Stato. Sì. un segnale satellitare. Poi il resto lo fa Bellinazzo quando certo. Certo, nel frattempo gli auguri arrivano copiosi davvero, Francesco da Milano, Fra Matteo addirittura, che augura anche buon San Francesco, Giancarlo, Federico d'Alessandria, Mario da Udine, Vincenzo, insomma tanti per il momento, e altri ancora ne arriveranno. Io sono per non lasciar passare mai l'attualità caduca, nel senso che la settimana scorsa per esempio ho organizzato una puntata sugli arbitri, non dico infallibili ma quasi, di questa prima fase, sapendo che non poteva durare, no? E allora per lo stesso principio ti direi, parliamo di questo Levante, no? Che ha la maglia azzurrana, non blaugrana, perché blau mi pare sia blau è il Barça, ma è una questione linguistica, no? Nel senso senso che è catalano. Perché Levante è la seconda squadra di Valencia. Di Valencia, che è in testa alla classifica col Barcellona. E sul secondo gradino, insieme al Real, ci sono Valencia, c'è Malaga, insomma, c'è un equilibrio che ovviamente è caduco, ma che per il momento tiene. Sì, ci sono squadre che spendono, perché comunque anche il Malaga ha fatto una campagna acquisti clamorosa. Tra l'altro il Malaga protagonista di una partita nella quale Jules Battista ha segnato un gol memorabile, è tornato al gol anche Van Nistelrooy. Ma il Levante è una bella storia, onestamente, una bella storia, perché ha una difesa vecchissima con un'età media altissima e soprattutto è una difesa che non prende gol. È una squadra per la quale gli scommettitori giocano quasi costantemente under, perché è una squadra che difende tanto, segna poco e spesso lascia a zero gli avversari, cosa che è accaduta anche a Real Madrid. Ha preso molti giocatori scartati da altre squadre, un giocatore come Coné che sembrava un fenomeno 3-4 anni fa e poi invece è stato forse anche troppo presto bollato come meteora o come bidone sopravvalutato. Ha un allenatore come Martinez che è alla sua prima stagione, arriva alla Liga Spagnola la prima stagione. Se tu pensi che il Levante ha vinto 4 partite in fila e non le va mai vinte nella sua storia, e questo ti fa capire di cosa stiamo parlando. È ovvio che si spegnerà presto questo fenomeno e poi ci sarà un ridimensionamento, è altrettanto certo che tutti gli anni noi raccontiamo una storia che una volta è l'Hoffenheim, una volta è il Brest, piuttosto che così. Questa volta tocca al Levante. Diciamo che se riescono ad arrivare, e il giorno in cui a novembre parleremo ancora di storie come queste, forse sarà cambiato qualcosa. Un buon segno, è vero. Infatti è per questo che le occasioni vanno sfruttate. Sì, esatto. Tanto di Real e Barça avremo tempo e modo di parlare abbondantemente. Ci leviamo la voglia come tutti gli anni. Senti, c'è stata qualche polemica su questo derby basco, no? Tra Athletic Bilbao e la Real Sociedad di San Sebastian, perché hanno giocato una partita alle 12 e letteralmente si crepava. Perché. Però è anche vero che nei Paesi Baschi in genere fa fresco d'estate anche. Sì, sì. E quindi insomma è quest'autunno folle, no? Io credo questo che autunno memorabile, direi, perché è bellissimo, forse fino a giovedì. Lo so, il problema è questo. Io ad esempio ho letto un lancio di agenzia di qualche settimana fa, quando è stato stabilito il recupero della giornata di campionato di Serie A il 21 dicembre. Il titolo era: chissà quante partite verranno sospese per ghiaccio. Forse no, perché già comunque ci sono dei campi che sono in sintetico e una volta non c'erano. E io onestamente poi tante partite sospese per ghiaccio non è che ne ricordo, sì, qualcuna sì, ma proprio tante no. Poi è chiaro che la condizione eccezionale si può sempre verificare, ma è proprio una condizione eccezionale, quindi non prevedibile. Cioè che nei Paesi Baschi ci fossero 32 gradi domenica, francamente non lo potevi prevedere fino a 2 o 3 giorni prima, e quindi quando fai il calendario magari diventa complicato. Sono cose che accadono e bisogna prenderne atto. Giocare a mezzogiorno anche domenica scorsa a Novara, secondo me, ha fatto molto molto caldo, però sono temperature che a queste latitudini sinceramente anche in sede, poi che spalmando gli orari ogni tanto si possa rischiare qualcosa di meteorologico in più o in meno, questo è nell'ordine naturale delle cose, ma che a questo punto di ottobre potesse fare una temperatura del genere a Novara come a San Sebastiano o a Bilbao, non so bene dove abbiamo giocato, insomma, mi sembra un po' eccessivo. Bella questa notizia del Camp Nou, che dal 22 ottobre, in occasione di Barcellona-Siviglia, diventerà il primo campo in cui sarà vietato fumare. Nel mondo forse no, perché in America è così, negli Stati Uniti è così da tempo, ma, però in Spagna certamente il Camp Nou sin humos, senza fumo, diventa realtà dal 22 ottobre. Auguri da Francesco da Napoli, da Marione da Trezzano sul Naviglio, auguri da Carlos Alberto dall'Argentina. Un grazie particolare. Gol bellissimi, mi pare, Fabio, un po' in tutta Europa, e questo ci porta, dopo il percorso, scegliendo tu il percorso ideale, ci porta anche a Parigi, a casa di Pastore, credo. Sì, in Francia dicono che adesso Leonardo debba un po' ricostruire la difesa di questa squadra, cioè debba dare un po' più di qualità anche alla difesa, però credo che la vittoria contro il Lione, intanto il fatto che Pastore abbia giocato così bene e si sia ambientato così bene, mi sembra già una notizia importante. Penso anche che il campionato lì abbia preso una piega che sarà difficile da contrastare, perché il Paris Saint-Germain ci ha messo credo una partita, forse due, a trovarsi. È stato subito messo in discussione l'allenatore, cosa che evidentemente avvicina ogni latitudine del mondo del pallone, però ecco, credo che in questo momento non ci sia più lo scetticismo che c'era nei primi giorni quando a Pastore più o meno tutti, soprattutto a Leonardo, non dico rinfacciassero i 43 milioni, ma insomma cominciavano a pensare che forse erano stati spesi troppi per un giocatore solo. Ecco, la vittoria contro il Lione secondo me ha proprio questo significato, cioè il Paris Saint-Germain adesso è veramente pronto e sinceramente non vedo come Montpellier o Tolosa o le squadre che sono lì più vicino, lo stesso Lille non è lontanissimo, possano contrastarli. Fabio, visto che abbiamo anche il quarto esonero, altro giro, altro regalo, no? Il quarto esonero in Serie A di quest'anno. Qual è la cosa divertente? Sì. Sai qual è la cosa divertente dell'esonero? Di Bisoli. Divertente tra virgolette, che i primi due candidati a prendere il posto, in questo momento i primi due candidati a prendere il posto di Bisoli, sono due allenatori esonerati prima dell'inizio del campionato, cioè Pioli da Palermo e Donadoni da Cagliari. Ma perché, per cosa vuoi? Il calcio italiano programma, è un calcio di programmatori questo. Hanno questa caratteristica. Sì, pazienti. E non gliela puoi togliere, sono caratteristiche che ce l'hai, o ce l'hai nel DNA o non ce l'hai. No, ma prima mi avevi chiesto dei gol, la segnalazione perché uno dei gol più visti su internet è quello di Der Diok del Bayer Leverkusen, che fa onestamente qualcosa di pazzesco, cioè un controllo, lascia rimbalzare la palla, fa un mezzo sombrero e poi una rovesciata. Sono gol che credo chiunque di noi abbia almeno tirato un calcio o un pallone abbia almeno una volta sognato nella notte. Ecco, a me di Der Diok dispiace perché non è uno che ne farà così belli sempre. Sì. La prima cosa che ha fatto si è tolto la maglia. Onestamente mi ha tolto quel grammo di poesia che ancora mi è rimasto e che mi aveva dato un gol del genere, e io quando succedono queste cose qua penso sempre allo sponsor che magari fa investimenti pesanti per far stampare quell'inquadratura, questo e spera magari che anche quella pippa, no? Un giorno riesca a far gol, così lo inquadrano di più perché fa più notizie e quello si leva la maglia sul più bello. Senti, io chiuderei con una curiosità che è questa. Qualche tempo fa abbiamo parlato di questa società tedesca, in questo momento Amnesia mi aiuterai, il Wolfsburg, che aveva multato giocatori per presunto scarso impegno, no? Segnalato all'allenatore da Magath. Adesso, proprio un minuto fa, vedi, tu non sei in onda, quindi te la dico io, è stato multato il centrocampista svizzero Kasami, che ha giocato anche nel Palermo, per aver sbagliato il rigore con il Fulham nel match di Carling Cup. Beh, insomma, 500 sterline. 500 sterline di multe per un rigore sbagliato, qui stiamo cominciando a esagerare, secondo me. Sì, però la sensazione è che lui l'abbia tirato prendendo il pallone a un compagno, cioè a Sa. Allora è un caso Inzaghino. Sì, Inzaghino, un caso Inzaghino, cioè nel senso che se lo segni va bene, se lo sbagli te la fai pagare. Materazzi, la multa gliel'ha data direttamente il manager, cioè Martignol. E credo che in questo caso ci stia l'insubordinazione. Anche poi, Materazzi una volta levò il pallone, mi pare, un Inter-Siena. No? Lì la percentuale di chi sbaglia è altissima. Certo. Quando rubi il pallone e lo vuoi tirare tu, è meglio se fai gol. Torna da lì a Capizzi. Un abbraccio e buon compleanno ancora. Grazie, grazie a Fabio Tavelli. Chiudiamo questo collegamento con la dépendance, avrete capito, oggi di Sky Sport 24. Lui torna in diretta, noi andiamo avanti proprio con Bisoli, che è, vi dicevo, il quarto allenatore esonerato di quest'anno. Due preventivi, ce l'ha ricordato Fabio Tavelli, Pioli e Donadoni, rispettivamente da Palermo e da Cagliari, prima di cominciare la stagione, nel segno appunto della programmazione, e poi Gasperini a Milano. Quarto allenatore in 5 giornate, il successore appunto potrebbe essere o Donadoni o Pioli, uno dei due preesonerati in estate. Hanno già rifiutato, a quanto pare, certamente Ballardini, ma anche De Canio, e credo che il rifiuto di Rossi fosse arrivato già addirittura prima, nelle settimane scorse. Non per infierire, giuro, non per infierire, ma soltanto perché il calcio è bello, anche perché insomma ci si illude ogni tanto e si lasciano magari andare parole in libertà. Ma certo, Bisoli a questa avventura bolognese, dopo la disavventura di Cagliari della stagione scorsa, aveva creduto davvero. Sentite cosa aveva detto al momento dell'ingaggio, insomma al momento della dell'arrivo dello sbarco sulla panchina bolognese. Di solito il porfetto empate non c'è, ma io poi non è che sono proprio di Bologna nativo, sono di Porrette, quindi diciamo non sono proprio in parte, non sono proprio in parte. Ecco, c'ho questo vantaggio che ho 60 km di montagna e di strada, quindi un po' me lo perdoneranno. In campo voglio la massima libertà e ho chiesto un'altra cosa, che 2 anni, ma non per essere salvaguardati economicamente, se non ci troviamo bene sono il primo a dirgli strappiamo, per creare un progetto importante. Io ho detto a loro, e lo ribadisco a tutti, che io vorrei rimanere qui per 5-6 anni e dico, e queste sono le mie parole, che se verrà, e vuol dire che abbiamo fatto bene, a cercarmi il Milan, la Juve, l'Inter, io rimarrò a Bologna finché loro me lo permetteranno. Aspetta, se mi dai una bella clausola a 30 milioni ti mando via. Il calcio estivo è tutta un'altra cosa. Poi magari l'estate si prolunga come in questo caso, ci restano queste temperature equatoriali, però poi l'atmosfera non è più la stessa. Luigi Pavia, buongiorno. Buongiorno Garanzini, auguri a tutti voi, vi seguo da molto tempo, siete una radio competente, fatta da persone competenti. Ecco, io volevo intervenire proprio sull'esonero di Bisoli, perché ho visto, mi è capitato di vedere un amichevole quest'anno dove era il Bologna in ritiro ad Andalo contro il Grosseto, se non sbaglio, e sinceramente ho detto, se questo è il, perché io non sono un tipo che guarda molto le partite di calcio di Serie A, ma ho detto, se questo è il livello della Serie A, non c'è da sperare bene, insomma, ecco, però ho pensato che era la squadra proprio scarsa e quindi sono stato facile profeta, insomma, immaginavo un esonero, ecco, proprio all'inizio di campionato dell'allenatore, mi spiace. E un'altra cosa, io sono tifoso dell'Atalanta, penso che l'Atalanta con diciamo l'archivio della pratica Doni ne abbia guadagnato non in qualità ma come carattere. Doni era sempre un tipo nervoso che si beccava munizioni per proteste ed era spesso fuori squalificato. Questo probabilmente lo trasmetteva alla squadra che non era quasi mai calma, insomma, ricordo numerosi cartellini gialli a diversi giocatori. Sì, certo, che Doni non fosse uno stinco di santo negli atteggiamenti e nei comportamenti in campo, questo è vero. L'Atalanta ne ha avuto un danno tecnico, lei indubbiamente accenta un aspetto su cui forse non, che non era stato ancora colto e su cui appunto una riflessione mi sembra più che autorizzata. Sul fatto invece che il Bologna di quella fase potesse essere più o meno brillante, beh, insomma, le preparazioni sono fatte apposta per provare ed eventualmente per sbagliare, è quando si comincia a giocare per i punti che tutto un pochino cambia. C'è un ascoltatore in linea, Alberto Torino, buongiorno. Garanzini, buongiorno. Dica. Senta, ne approfitto della sua pazienza e della sua competenza perché ho un'informazione che non ho letto da nessuna parte sui quotidiani. Mi riferisco alla famosa cerimonia di inaugurazione dello stadio della Juventus in cui sono sfilati diversi campioni storici della Juve. A parte la mancanza di Nedved, vabbè, quella è stata anche spiegata, ma secondo lei perché non è stato chiamato, convocato, vogliamo come dire, Baggio? Saprei, Alberto, non saprei, magari è stato invitato e magari invece non c'era, non lo so, io non ho fatto la lista e quindi sinceramente non sono al corrente né della lista degli invitati né della lista degli eventuali, non dico rifiuti, ma semplicemente di chi ha declinato, immagino e spero cortesemente. È anche vero che con una storia come quella della Juventus, insomma, una lista di invitati è non dico l'annuario del calcio che conta, ma insomma è certamente un elenco importantissimo. Platini era stato lì qualche giorno prima, ma poi in realtà quella sera non c'era e Platini per la Juve qualcosina più di Baggio, con tutto rispetto al rappresentato, non c'era Zidane, ma non credo non fossero stati invitati, che semplicemente ti invitano e poi tu riesci ad andarci o non riesci ad andarci, come per tutte le cose. Questa voce di Braschi, designatore arbitrale, non siamo riusciti a mandarla in onda ieri per una questione, una sfasatura di pochi minuti, la sentirei comunque, e riguarda ancora la nefanda prestazione di Rocchi di sabato sera a San Siro. Siamo di fronte a un arbitro di grandissimo livello, a un atleta di grandissimo livello. È chiaro che, come tutti gli atleti di grande livello, può avere una domenica dove anche non fa una prestazione di alto livello come gli si compete. La domenica di Rocchi probabilmente la prestazione è stata un po' sottotono. Succede che una partita non vada bene o comunque che l'arbitro sia un po' sottotono, ma sembra che questo concetto sia valido per tutti ma non valido per un arbitro. Non ci sono delle regole precise, c'è una squadra, c'è uno spogliatoio, ci sono degli arbitri e sulla base di questi io mi muoverò. E questo è un concetto che, quando gli errori sono particolarmente gravi, si fa fatica ad accettare, ma è giusto, deve essere accettato. Torniamo alla notizia del giorno, vi dicevo, a questo decoder senza frontiera, a questa rivoluzione del mercato che la Corte di Giustizia della UE ha disposto con una sentenza a proposito di diritti televisivi. Se Fabio Tavelli conduce, come sapete, l'ininterrotto telegiornale di Sky Sport 24, in compenso Fabio Belinazzo sta moderando un convegno sull'evasione fiscale a Bari e insomma, per 5 minuti è riuscito a sua volta a staccarsi, sostituito non so se da Lia Capizio o da Chi, sto ovviamente scherzando. Buongiorno Fabio. Buongiorno Marco. Marco, chiedo scusa, perché è ovvio. Buongiorno Marco Belinazzo, senti. Allora, so che a Napoli stanno già preparando dei decoder speciali comprati in varie parti d'Europa. Certo, a Forcella a quest'ora come siamo messi a fare il tuo? Abbiamo già decoder dal Turkmenistan e Uzbekistan, schede piratate di Sky, insomma, comprate. No, insomma, a parte gli scherzi. Aiutaci a capire e a proiettare. Guarda, la sentenza, come la famosa sentenza Bosman, potrebbe avere in effetti un impatto importante. Il principio giuridico che è conforme alle norme europee, cioè quella di libera circolazione di beni, merci e servizi, è molto chiaro. Cioè, se uno compra una scheda per assistere a una partita di calcio, in teoria quella scheda, dice la Corte di Giustizia europea, potrebbe essere usata in qualsiasi altro paese della comunità. Cos'era accaduto? Che in alcuni pub inglesi, costando molto il servizio di trasmissione in pubblico acquistato da Sky, è invalso l'uso di comprare decoder e tessera da un operatore ellenico a prezzi molto più contenuti. Sì. La Premier League si era accorto di questo fenomeno e ha fatto causa appunto a questi pub. Che è successo? Che l'alta corte di Londra ovviamente ha chiamato in causa la Corte di Giustizia europea, quale ha detto che però la trasmissione invece di queste partite utilizzando schede comprate in Grecia, in altri paesi, è del tutto legittima e conforme ai principi della comunità europea. Quindi ha salvato questo signor Murphy, che aveva questo pub a Portsmouth, e quindi potrà continuare a trasmettere, lui come tanti altri, le partite della Premier League usando la scheda comprata in Grecia. Questo è quello che grosso modo la Corte di Giustizia europea ha detto. Ma proviamo a tradurre in pratica, cioè le leghe potranno a questo punto vendere più volte i loro diritti oppure semplicemente abolendo i confini, cioè, che succede? Io dico innanzitutto meno male che la Lega di Serie A ha appena chiuso l'accordo per il prossimo triennio e quindi ha salvato, insomma, l'incasso di circa 1 miliardo all'anno che la Serie A ottiene grazie appunto ai diritti televisivi, perché si aprirebbe e si aprirà, immagino, tutta un problema, come dire, di trattative a questo punto comunitarie. Cioè Sky a questo punto dovrà capire se continuare a vendere i diritti nei singoli paesi o se acquistare per esempio i diritti di trasmissione della Serie A per tutti i paesi. chiaramente questo è un problema che si pone in particolare per la trasmissione via satellite. È chiaro che la deregolamentazione potrebbe far sminuire il valore in sé dei diritti televisivi, o forse creare quella concorrenza fra vari operatori che potrebbe permettere, insomma, ai fruitori del calcio in TV effettivamente con il commercio online di acquistare decoder e schede in altri paesi dove è più conveniente, certo, e sfruttare, diciamo, lo sviluppo tecnologico. Credo che lo scenario sia molto variegato. Quando vi dicevo che potrebbe essere una sentenza con effetti importanti, se non rivoluzionari come quella Bosman, perché in effetti i presupposti ci sono, bisogna vedere se appunto lo sviluppo tecnologico e poi leggendo varie motivazioni della sentenza si arriverà come dire, a un'applicazione effettivamente rivoluzionaria o se poi si troveranno degli accorgimenti per salvare i contratti in essere e in qualche modo permettere invece alle TV di venderle comunque nei limiti territoriali questi diritti e lasciare più o meno le cose così come stanno. Insomma, ora quando ci saranno le motivazioni le leggeremo e capiremo meglio. Insomma, sicuramente è una sentenza che potrebbe cambiare di molto gli scenari dei diritti TV in Europa e per la Serie A, che sappiamo dipende per 2/3 di incassi dai diritti TV, insomma, qualche preoccupazione potrebbe esserci. Molto bene, buon convegno Marco, ma sappi che ti aspettiamo a breve, perché io tra l'altro ho accumulato molta posta diretta a te con molti, molti quesiti su argomenti che nel frattempo sono maturati, e quindi appuntamento a presto direttamente in studio. Grazie, a presto Gigi. Grazie allora a Marco Bellinazzo, tra poco ricominciamo con i vostri interventi. Io sentirei nel frattempo qualcosa di azzurro, perché è pur vero che l'Italia di Prandelli è già qualificata aritmeticamente alla fase finale dei campionati europei, dunque queste due partite che rimangono in calendario, a cominciare da quella in casa della Serbia, temuta a questo punto semmai per ragioni ambientali, non certo di classifica già definita, almeno per l'Italia. Dicevo, è pur vero che tutto questo ha un'importanza relativa, ma sono pur sempre partite della nazionale. E mi sembra interessante sentire due frammenti, in particolare che Prandelli ha dedicato a Giovinco come uomo nuovo del calcio italiano, non lo si può dire perché non è così nuovo, però insomma come soggetto davvero da seguire con estremo interesse. E poi una cosa invece sulla Juventus e su questa nuova guida di Conte. Cominciamo da Prandelli su Giovinco. Mi sembra che in queste ultime convocazioni abbiamo dato fiducia a un ragazzo che sta ripagando tutti, quindi un Giovinco così è un giocatore non interessante di più. È un giocatore che ha in questo momento ha trovato una certa convinzione. Quello che mancava a Giovinco era diciamo l'aspetto realizzativo. In queste partite sta dimostrando di essere anche comunque molto freddo e bravo in area di rigore, quindi sarà un anno dove veramente potrà dire tante cose, ma potrà essere forse il giocatore più importante a livello del panorama italiano. Beh, non è un complimento e di conseguenza non è una responsabilità da poco quella che Prandelli ha caricato sulle non colossali spalle di Giovinco, centrando insomma, anche il vero cambiamento rispetto a qualche tempo fa, e cioè il fatto che Giovinco segna adesso, e segna al punto da essere in questo momento, insieme a Palacio del Genoa, il capocannoniere del campionato italiano dopo 5 giornate, con la media rispettabilissima di un gol a partita. Due ascoltatori, Davide della provincia di Pavia, buongiorno. Sì, buongiorno Garantini. Volevo fare una precisazione solo sulle parole che ha detto il designatore Braschi, perché tutti in questo mondo hanno paura di parlare della malafede, ma una persona che fa un'affermazione sapendo di mentire, secondo me è in malafede. L'arbitro Braschi ha detto che non si accettano le liste di prescrizione, ma a me risulta che l'arbitro russo che ha arbitrato Cesena-Milan dell'anno scorso non ha mai più arbitrato il Milan, nemmeno in Coppa Italia. Allora delle due, o solo fare o ha mentito. Vabbè, vedremo, andiamo a fare insomma, magari qualche rilievo statistico, oppure nel frattempo queste cose funzionavano in passato, soprattutto le ricusazioni, ma non sto parlando di un passato abbastanza recente e molto fetido, sto parlando di passato remoto, anche in cui c'erano c'era davvero l'istituto non ufficialmente riconosciuto né sancito, ma insomma delle accusazioni, e quell'arbitro non lo voglio più vedere, diceva, ovviamente non il Foggia, diceva una squadra prefibilmente con le maglie a strisce, e puntualmente veniva accontentata magari per anni. Adesso non sapevo, cioè non credo che questa cosa tuttora sussista. Lei dice, l'arbitro russo, che in effetti lo scorso anno a Cesena era stato criticato, come dire, anche da personaggi autorevoli al di fuori del campo strettamente calcistico, in abito milanista, e può darsi che da allora Russo effettivamente non abbia più arbitrato e continui così. E in questo caso sarebbe davvero curioso chiedere, senza tirare in ballo malafede, queste parole, sarebbe davvero curioso chiederne conto al designatore arbitrale. Giuseppe Pescara, buongiorno. Pronto? Dica Giuseppe. Sì, Garanzini, buongiorno, auguri per il nuovo anno, per la nuova trasmissione di quest'anno. Innanzitutto, poi volevo dire una cosa, dico, siamo le solite con le lamentele arbitrali, no? Perché ogni anno a turno, una volta la Juve, una volta l'Inter, una volta il Milan, poi le piccole, le provinciali, che sentono delle conduzioni arbitrali, no? Però questa federazione, la Lega anche, soprattutto, non fa nulla per favorire l'introduzione di strumenti tecnologici atti appunto a vedere un po' gli errori che purtroppo gli arbitri durante le partite fanno. E questi presidenti un po', come dire, ricchi e un po' scemi, perché insomma, onestamente... Questo l'ha detto lei. Sì, ma lo dico io. Cioè, sì, il loro livello, questo lo diceva... non mi pare proprio di, insomma, eccessivamente elevato. Questo lo diceva Onesti negli anni 50 ed era una battuta. Onesti era il presidente del CONI, se lo poteva permettere. Lei, secondo me, molto meno a spanne. Comunque, dica, magari andando verso la conclusione. Sì. Ma perché, scusi, vogliamo fare qualche nome di come si comportano? Cioè, vogliamo vedere i vari Preziosi, Zamparini, Moratti, eccetera, eccetera, come si comportano, le dichiarazioni che fanno? Vogliamo discutere su questo? Cioè, da persone, come dire, di cultura, o persone che hanno un minimo di raziocinio, di ragionamento? Vabbè, lei ha una sua opinione, io ho la mia. Sì. Comunque, voglio dire, ci si lamenta un po' per gridare lupo al lupo, quindi per evitare che questi errori si ripetano, e quindi magari non far tornare arbitri sgraditi nei propri stadi, salvo poi invece non fare nulla contro quell'altro malavitoso di Blatter, presidente della FIFA, che praticamente ha fatto una sorta di barriere, di muro contro l'introduzione degli strumenti tecnologici. Parliamo di uno sport nel 2011, sì, tecnologia ormai a basso costo dappertutto, in tutti gli sport, nel calcio ancora non si riesce a introdurre questa cosa, salvo poi lamentarsi la domenica per far parlare i giornali, mass media, eccetera, eccetera. È la solita solfa di sempre, insomma. Tutto qui. Beh, che lei ha mirabilmente, direi, sintetizzato con un intervento davvero che ci voleva, per ricordare che sono 12 anni che tutto sommato questo programma resiste, no? E se ha resistito ancora 12 anni, per tutti questi 12 anni, secondo me può farcela ancora. Grazie davvero, Giuseppe. Fa notare Riccardo da Milano, giustamente, che Giovinco ha una media di 1,25 gol a partita, perché ne ha giocate solo 4, uno l'ha saltata per squalifica, e quindi ha maggior merito dell'avvio di stagione di quella che qualche tempo fa chiamavano, con una bella immagine, la formica atomica. Sentiamo Nicola Filippone, il 4 ottobre, cosa avrà scovato per questa data che, ricordo, rappresenta il nostro compleanno di Radio 24. Sembra ieri. 4 ottobre 1970. Il neopromosso Foggia di Maestrelli impone al Milan di Rocco un pareggio per 1-1 nella seconda giornata di campionato. A Rivera risponde il futuro milanista Bigon. Nelle file dei pugliesi si distingue un giovane debuttante, il biondo centrocampista Luciano Rececconi. Nella sua prima stagione nella massima serie, Rececconi giocherà 26 partite, segnando un gol alla Lazio. Proprio la squadra dove 2 anni dopo approderà, fortemente voluto da Maestrelli, per diventare una colonna della formazione che nel 1974 vincerà lo scudetto. Capito, un gol di Bigon al Milan di Rocco, per il quale era segnato Rivera. Stiamo parlando di 41 anni fa, suggestione rossonera da una parte e suggestione azzurra dall'altra, con appunto Bigon e poi il povero Luciano Rececconi, e alla corte, alla sua volta, povero Maestrelli. Domenico dalla provincia di Latina, buongiorno. Sì, salve, buongiorno, salve. Intanto complimenti per come fate la trasmissione, in modo schietto, allo stesso tempo anche tranquillo e diciamo, in modo piacevole. Sì, il mio intervento era per questo. Io domenica scorso ho seguito un po' le partite di Serie B e sono rimasto sconcertato dal fatto che ho visto veramente dei giocatori fortissimi in Serie B e che vengono salvati un po' da queste squadre di Serie A che vanno sempre dietro a questi stranieri. Cioè, perché continuare ad andare all'estero quando in Serie B ho visto dei campioni? Se posso fare anche qualche nome, tipo Cutolo del Padova, non so se l'hai visto domenica, ha fatto delle cose straordinarie, oppure quei due gel del Pescara, Insigne e l'altro Immobile. Cioè è assurdo che si vada sempre all'estero con questi campioni in Serie B, come lo stesso Giovinco che fu snobbato dalla Juventus, anche perché questi giocatori che hanno mirato sono un po' dei trequartisti, dei fantasisti, e ormai si sa che in Italia questo ruolo si sta portando a eliminare perché ci si vuole inglesizzare con queste fasce e eliminare questi fuori. Cioè, adesso un giocatore come Maradona in Italia giocherebbe da punta, non da fantasista. Sì, perché ormai questo ruolo si sta distruggendo, non so perché, ma lo stesso il Napoli, la Vesti gioca da punta, invece dovrebbe fare il fantasista, il trequartista dietro le punte, e siccome anche la Juve questo ruolo non l'accettava, Giovinco l'hanno mandato via praticamente. Sì, cioè, questo fatto di inglesizzarsi con queste fasce in Italia non porta bene, perché queste fasce, questo è un gioco da disciplina e da fisico, e l'Italia non è un paese di questi, l'Italia è un paese di inventori, dei poeti, e quindi il fantasista, il quartista che inventa ci deve essere. Domenico, senza il suo intervento appassionato è delizioso per questo, però adesso senza esagerare, lei ha detto un sacco di cose giuste, di cose vere, di cose che hanno un fondamento, poi però qualche piccola esagerazione c'è, intanto che poi bisogna vedere la reale dimensione di questi giocatori. Un conto è il palcoscenico, un conto è il palcoscenico ben diverso. Lo stesso Giovinco, quando l'opportunità l'ha avuta, io dico che non hanno insistito abbastanza, non hanno avuto abbastanza pazienza, non hanno tenuto conto che quella non era una Juventus in cui valutare la vera caratura di un giovane che stava crescendo, che evidentemente aveva bisogno d'aiuto. Ma insomma, questi sono discorsi che poi, volendo, andrebbero approfonditi, e se si approfondiscono per tutti non ci bastano 24 ore anziché un'oretta lorda, però ripeto, senza poi esagerare la portata di questi discorsi, perché lei mi dice Maradona oggi giocherebbe punta, Maradona giocherebbe come ha sempre giocato, ma soprattutto giocherebbe dove vuole lui, dove lui sentirebbe di essere protagonista. E poi guardi che non è che giocare di punta per un fantasista sia una condanna, può essere un'esaltazione. Guardi Messi, oggi Messi sta facendo la punta in realtà, e sta facendo la punta centrale addirittura, sia pure poi arrivandoci per le sue vie traverse e accendendo ogni volta il motore al massimo dei giri, però insomma, questa è la risposta, è una risposta, ma molto molto autorevole, al fatto che il calcio di oggi, se è ben interpretato davvero, grandi stereotipi non ne ha più. Ecco, il sito del Milan pubblica notizia molto triste, che è scomparso Gianni Nardi, che era da 27 anni vicepresidente del Milan, e lo era dall'epoca in cui aveva dato un grande aiuto economico, questo lo ricordo bene, da cronista di allora, un grande aiuto economico a Farina negli anni difficili del Milan, prima della gestione del Cavaliere Bianco, e quindi questa è una scomparsa particolarmente dolorosa. Ricordo il vicepresidente del Milan Gianni Nardi. C'è in linea Marco, ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno, mi unisco da milanista alle condoglianze del nostro vicepresidente, una persona sempre stata vicino al Milan, l'ho conosciuto, una persona, mi spiace tantissimo a prendere questa notizia. E, tornando al calcio giocato, io è anni che dico che il problema del Milan è il centrocampo, e sono convinto che il centrocampo Van Bommel, Seedorf, oggi abbiamo Nocerino, ma se il titolare non è Nocerino è Gattuso, Ambrosini, non cambia niente, è un centrocampo che qualsiasi squadra che corre non può produrre calcio. Siccome abbiamo preso Aquilani, che tutto sommato quando è entrato ha dimostrato qualcosa di buono, non capisco il perché, quando il nostro allenatore vede che il nostro centrocampo non becca una palla dopo un'ora, non prova a inserire Aquilani, che è più giovane, ha voglia di correre e forse ha voglia di far vedere qualcosa di meglio. Se un giocatore che apprezza il talento come un allenatore, chiedo scusa, che apprezza il talento come Allegri non pare non apprezzare moltissimo Aquilani, io sospetto che qualche ragione ci sia, poi ovviamente non sono in grado di conoscerla fino in fondo e di conseguenza di cose. Mi sono perso quel Prandelli su Conte che secondo me valeva la pena di essere ascoltato e che magari ascolteremo domani in un'altra puntata. Per il momento, per questa di compleanno, ripeto, di Radio 24, ringrazio Mauro De Nicola in regia, Franco Piattanida in redazione, e vi auguro un buon pomeriggio.